In questo momento la vostra fragilità qual è? Il mostrarsi, l'esprimersi tramite parole, non lettere sul cellulare. Questa è una cosa molto importante, no? Quindi imparare di nuovo a stare nella relazione con l'altro. Perdere nuovamente la memoria di cui parlavamo prima. Ognuno di voi è un essere diverso, unico e irripetibile. Non c'è nessuno come lui, non c'è nessuno come lui, nessuno come te. Siete esseri unici e irripetibili e siete veramente esseri umani, non categorie. E spesso le persone fragili andiamo a rinchiuderle dentro le categorie. È facile, è una soluzione molto semplice, no? Allora, noi dobbiamo veramente liberarci di queste gabbie, perché altrimenti smettiamo di vedere l'altro. E quindi corriamo il rischio di essere immersi in una società che premia l'individualismo, non premia più la collettività, non premia più l'unicità dell'esperienza, dello stare insieme all'altro, di porsi all'ascolto e di essere a disposizione dell'altro.